Ma noi pensiamo che bisogna investire nel lavoro, nella formazione, nella messa in sicurezza del territorio. Pensiamo che il lavoro si crea attraverso un piano di investimenti pubblici e non attraverso misure spot, che tra l'altro nemmeno ci sono in questa legge di bilancio, perché tutto viene rinviato al provvedimento che abbiamo approvato prima, che era il decreto dignità. Quella del governo è una manovra contraddittoria, con molte ombre. Tra l'altro, metà della manovra non si sa che cosa sarà, perché sono due provvedimenti, quota 100 per le pensioni e il reddito di cittadinanza. Ci sono solo i soldi, ma non si sa come funzionerà, da quando, con quali caratteristiche. Noi pensiamo che bisogna investire nella giustizia fiscale, quindi attraverso un'azione che colpisca chi non ha mai pagato le tasse, ne ha pagate troppo poche, quindi la Tobin tax per le speculazioni finanziarie, la digital tax per i giganti del web che non hanno mai pagato tasse, risoria, e attraverso una vera spending review, che per noi spending review significa riduzione delle spese militari. Pensiamo che si possa ridurre di ben 4 miliardi la spesa militare nel nostro paese, ovviamente bloccando l'avventura dei cacciabombardieri F-35. Per farci che cosa? Per farci un piano di investimenti. Noi proponiamo almeno 10 miliardi di euro, che appunto vada nell'avvio di tanti piccoli cantieri di cui questo paese ha bisogno, per mettere in sicurezza le scuole, per mettere in manutenzione il territorio, per fare un'opera di sostegno alle energie rinnovabili attraverso, diciamo, tanti interventi che possono essere messi in atto. E poi naturalmente un intervento per la scuola e l'università, perché abbiamo tanti ragazzi che sono idonei per le borse di studio, ma non le prendono le borse di studio perché non ci sono i soldi. Il piano per l'offerta formativa è sottofinanziato. Insomma, ci sono tante cose che possono essere fatte per rendere il diritto allo studio veramente un diritto, altrimenti è solo sulla carta. Le vostre proposte si aggirano complessivamente, insomma, con una manovra con poco meno di 39 miliardi. Il nodo di solito che si evoca quando si parla di una manovra economica sono le coperture. Una parte, l'hai già detto tu, con il taglio alle spese militari e l'F-35. Quante risorse si possono recuperare, appunto, senza nuove tasse? Ma noi pensiamo che si possano recuperare 4 miliardi e 2 attraverso la riduzione della spesa militare, altri 500 milioni dal blocco dei sistemi d'arma come gli F-35. Poi pensiamo che va posta fine a una serie di agevolazioni fiscali attraverso, ad esempio, quelle per la scuola privata, che sono altri 400 milioni di euro più o meno. E poi naturalmente la parte fiscale non è indifferente, perché questo è un paese in cui pagano sempre i soldi e invece chi deve pagare non paga. Quindi pensiamo che la parte della giustizia fiscale sia una parte fondamentale, sicuramente significativa. Poi noi proponiamo anche di legalizzare la cannabis attraverso la legalizzazione della cannabis, quindi attraverso il ruolo dello Stato si potrebbe avere un introito di circa 4 miliardi di euro. Queste sono alcune delle misure che noi pensiamo fondamentali per recuperare le risorse, che sono quelle che ci servono per fare gli investimenti di cui oggi abbiamo drammaticamente urgenza. C'è il tema del lavoro. Tu prima già dicevi che ad esempio il reddito di cittadinanza è una misura ambigua. Quello che serve invece è rilanciare l'occupazione. Come? Sì, diciamo che vanno fatte entrambe le cose: rilanciare l'occupazione attraverso gli investimenti, perché non è che il lavoro si crea da niente, il lavoro si crea se c'è una domanda, cioè se c'è bisogno di lavoro. Il bisogno di lavoro si crea se fai investimenti, cosa che le imprese non hanno fatto in questi anni e che non ha fatto nemmeno lo Stato. L'Italia è piena di bisogni sociali e di altro genere insoddisfatti, nel senso che abbiamo tanti problemi che non si affrontano, quindi si può, diciamo, attraverso una politica di investimenti creare le condizioni per avere nuova occupazione. Poi c'è il discorso del reddito. Noi pensiamo che abbiamo bisogno di un reddito minimo, che però temiamo che la misura prevista da questo governo sia una misura insoddisfacente, ambigua, sia una grande social card, non so come dire. E noi abbiamo bisogno invece, probabilmente partendo proprio dalla misura esistente, che è ancora molto modesta, cioè il reddito di inclusione, allargarlo effettivamente a tutte le famiglie che sono in condizioni di povertà assoluta. Temiamo che questa legge di bilancio, invece quella che il governo ha proposto, sia una legge di bilancio paraelettorale, in cui ci sono le due misure, che sono quelle di due o tre misure, che sono quelle che soddisfano, diciamo, l'elettorato, comunque sia le tra virgolette promesse che le due forze politiche hanno fatto al loro elettorato. Però non ci sia una visione, non ci sia un idea su come vedere, su come diciamo costruire l'Italia nei prossimi mesi. Cioè pensiamo che questo contratto è un contratto diciamo che mette d'accordo delle controparti, ma su un accordo tra controparti non si mettono le basi di un paese che vuole ricostruire una sua prospettiva su un modello di sviluppo che è radicalmente diverso da quello che abbiamo conosciuto. Un'ultima battuta: voi dite che con la vostra contromanovra non aumenta l'indebitamento e il rapporto deficit PIL, ma sarebbe sufficiente per piacere all'Europa che, come dire, invece negli anni ha proposto comunque misure liberiste e di contrazione dei diritti? Ma premetto che noi non siamo a favore del pareggio di bilancio, diciamo abbiamo dimostrato polemicamente che si possono fare molte cose senza diciamo aumentare il debito. Quello che noi diciamo è che si può fare anche il debito, quindi si può anche aumentare il rapporto deficit PIL, ma per fare delle cose utili, per fare delle cose che servono. Anche Tremonti voleva aumentare il debito, però per fare le cose che Berlusconi poi ci ha proposto nel corso degli anni, sostanzialmente non ci hanno portato molto lontano, hanno portato diciamo al paese sull'orlo di una vera e propria bancarotta. Quindi noi diciamo, naturalmente diciamo, rompere il tabù del debito è importante, il problema è che non è a sé, in sé qualcosa di positivo se non legato alle politiche che uno vuole fare. Mi sembra che questa legge, la legge di bilancio, le politiche che noi pensiamo siano utili al paese non ci sono.